La nona edizione è sempre il solito festival underground, ma molto più grande, perché adesso siamo divisi su due strutture, una è a Bologna e una è a San Lazzaro, e infatti stiamo collaborando con tutti e due i comuni. Il nostro progetto è quello di rendere sempre più grande quello che è il valore di alcune nicchie. Quindi sport che partono dalla strada, che partono da poche persone, che in realtà tutti insieme generano un evento molto grande. Ogni nostro elemento, ogni nostra attività, sin dalla prima edizione ha cercato di fare il massimo. E quello che avremo è un evento diviso per venerdì, sabato e domenica, 6, 7, 8, che è l'evento internazionale, più uno spin-off il 14 e 15 qui ad Urbana. Quello che faremo è il venerdì diffonderci per la città. La Gemme di Parkour si troverà qui, a Dumbo, in via Caserini 19, quello che noi chiamiamo Edenbo, dove in pratica ci hanno concesso delle strutture, un'associazione di Bolzano, e abbiamo generato un altro parkour park. Quindi tutta la giornata del venerdì qui a Dumbo sarà dedicata al parkour, con quattro ospiti internazionali, uno londinese, uno irlandese e due belga. Si starà qui e si salterà nella consueta Gemme di Parkour. Mentre in contemporanea a San Lazzaro ci sarà una Gemme con tutte le scuole di Bologna di circo. Quindi in pratica abbiamo aperto le nostre porte a tutte le scuole per creare aggregazione invece che competizione, e quindi lì tutta la parte circense di Eden cercherà di fare una commistione e regalare anche quello che sono le particolarità delle nostre strutture, come per esempio mettere degli attrezzi sopra una piscina di gomma piuma, quindi aumentare la sicurezza, limitare il pericolo e aumentare lo sharing per poter provare determinate cose a tutti i livelli. L'altra cosa che stiamo facendo è invece portare degli arrampicatori a quindi uno dei nostri, che è una guida alpina, porterà dei ragazzi su a Badolo a far scoprire le pareti arrampicate anche all'esterno. Tutto ciò si concluderà con confluire all'interno dello stesso spazio a San Lazzaro, dove ci sarà un open stage, quindi la nostra struttura sarà aperta allo spettacolo di chiunque voglia, quindi mettiamo la musica, ci saranno delle luci di base e loro faranno il loro spettacolo, poi aperitivo, e ci prepariamo all'indomani, che sarà il sabato a San Lazzaro e la domenica a San Lazzaro, dove tutte le nostre discipline faranno workshop per chiunque voglia venire a provare, quindi si può partire da extra principianti, e dove ci saranno invece le Gemme di parkour a tutti i livelli. Alcuni ragazzi che stanno venendo sono degli alieni, sono dei mostri sacri del nostro sport. Ci sarà il contest di boulder, che invece è stato fatto in versione sociale, sarà un contest a coppie dove si possono unire, poi partecipare, partecipare a queste cose, e i premi sono dati a sorteggio, quindi non a vincita. Ci saranno sempre workshop di circo particolari, a coppie su straps, a coppie su tessuti, tantissimo materiale, tantissime cose che si svolgeranno in tutte e due giorni. Poi aperitivo, seratina, convivialità, ed alcuni, molti, soprattutto per quanto riguarda la branca del parkour, dormiranno qui a Bologna perché vengono da tutta Italia. Per riassumere, quindi, quali sono le discipline che possiamo trovare? Parkour, circo, che si divide in cerchio, straps, tessuti, eccetera eccetera. Abbiamo arrampicata, e questi qua sono i tre capisaldi. Poi da lì abbiamo verticali, abbiamo yoga, abbiamo skate il 14 e 15, abbiamo acrodanza, floor work e danza, abbiamo tanta roba, conviene guardare sul sito. Direi un evento ricchissimo. Chi è il benvenuto invece a questo progetto? Chi può venire? Tutti. Può venire chiunque, cioè chi non ha mai fatto sport può venire a provare una disciplina. C'è un ingresso dedicato, c'è un ingresso dedicato semplicemente ai visitatori, a chi vuole venire a guardare uno dei due spazi. C'è un ingresso atleta un giorno per lo special event, che è il venerdì, oppure per gli eventi del sabato e della domenica. Ci sono biglietti dedicati a tutti e due i giorni, a tutti e tre i giorni. Puoi venire a fare quello che ti pare. Qual è invece il costo o la prenotazione? Come funziona per partecipare? Allora, la prenotazione, vabbè, si fa tramite mail con contatto. Per quanto riguarda il costo, sono 10 euro per i workshop, 20 euro lo special event, 25 euro atleta un giorno o il sabato o la domenica, 40 euro due giorni, 55 tre giorni.